questo alla fine è, come dire, la base dell'SPD ha detto di sì. Anche chiaramente con un 66% dei voti degli iscritti al partito, quindi è stato un sì forte, un sì chiaro, che diciamo era anche un po' inaspettato visto l'ultimo periodo. SPD a Bonn aveva avuto un voto da parte dei rappresentanti, dei delegati, che era una maggioranza abbastanza esigua, insomma, e quindi ci si aspettava dal popolo socialdemocratico una risposta differente. Invece è arrivato un chiaro sì alla grossa coalizione, forse anche un po' per paura di quello che poteva essere una nuova votazione con AfD che ha raggiunto il 16% e per qualche giorno aveva superato i socialdemocratici, o per un governo di minoranza. Insomma, si è parlato molto di stabilità, di sicurezza della Germania, ecco, di questa nuova Europa che dovrebbe essere costruita insieme a Macron, e forse questi temi hanno fatto presa sulla popolazione tedesca, in particolare non proprio tutta la popolazione, diciamo la popolazione che vota democratica. Certo. Tu hai già elencato alcuni dei fattori che hanno portato a questo sì. Il passo indietro di Schulz ha contato in qualche modo? È molto probabile di sì, in quanto Schulz diciamo che di passi indietro ne aveva fatti diversi. Questo è stato il più grande. Siamo partiti dal primo passo indietro: non faremo mai una grossa coalizione, a io non entrerò mai in un governo di grosse coalizioni. E alla fine diciamo che Martin Schulz è quello che ha un po' pagato questa lotta intestina all'interno del partito, l'ha pagato con la propria testa, era stato chiamato da fuori, quasi diciamo una sorta di podestà, veniva da fuori un europeista convinto da Bruxelles, insomma un nome spendibile bene in Germania, che poi è risultato non vincente. E ecco, ha pagato con la sua testa e ha sicuramente contato. Insomma, forse se Martin Schulz fosse rimasto comunque a capo del partito, o si fosse tenuto questa ipotetica poltrona al Ministero degli Esteri, il voto sarebbe stato differente. C'è stata una bella rivolta all'interno del partito contro l'ex presidente dell'Europarlamento, ecco. Nelle tue previsioni, la futura cross coalizione quanto sarà in continuità e in discontinuità con quella che abbiamo alle spalle? Molto probabilmente SPD spingerà per avere un po' un cambio, perché il partito, diciamo che nonostante questo sì, è distrutto. È un partito che rischia la fasochizzazione, insomma, basta vedere, insomma, quello che è successo ai socialisti francesi. E quello che si vuole è assolutamente evitare questo, anche perché i sondaggi parlano chiari, SPD è veramente in basso, e quindi cercheranno di spingere molto sui temi che hanno portato all'interno di questo patto di 177 pagine, che poi sarà il patto di grosse coalizioni. Quindi spingeranno molto sulla sanità, sull'Europa, anche se poi sull'Europa, insomma, sono state spese molto belle parole, ma poi bisognerà vedere in concreto cosa succederà. Però d'altra parte la Merkel ha un problema nella sua destra, se ho ben capito, quindi come conciliare le due cose? Sì, anche Merkel ha il problema con la sua destra, è un problema che sta cercando di risolvere un po' con i ministeri, come ha messo Jens Spahn alla salute, che fa parte della sua ala più destra del partito, e ha regalato questo Ministero degli Interni, che poi è stato rinominato come Ministero dell'Heimat, che è una sorta di, diciamo, quasi un Ministero della Nazione, che è stato dato alla CSU, ma sarà difficile, senza dubbio, ma possiamo dire anche che Merkel è sempre stata molto brava nel fare questo, quindi non credo avrà molti problemi a conciliare queste due anime della grossa coalizione. Ecco, hanno detto stasera, commentando in TV, che questo voto in qualche modo evita ogni tipo di lacerazione o scissione nell'SPD, invece l'ha riunificata in qualche modo. Sei d'accordo con questa interpretazione? Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso, diciamo, come se questa paura avesse rianimato il partito, quindi l'ha riportato alla partecipazione, si è tornati a partecipare, si è parlato. Comunque è un partito che parla molto, diciamo che è molto tipico delle sinistre in tutta Europa, che si parla molto, si discute molto. Poi la maturità è nel non dividersi, ecco, non scindersi, cosa che da noi capita spesso, ecco. E quindi sembra che abbia ravvivato il partito, ma c'è ancora molto da fare. Quindi questo governo sarà anche una prova, il banco di prova per SPD, per vedere quanto sarà maturato e quanto avrà imparato dai propri errori.